Perché cosa vuoi? Vabbè, Natali. Ciao, Antu. Capo, sono andato là. Là dove? Da cosa? Da quella persona, a latte dolce. Capa. Sta a posto, Natali? Ehi, tutto a posto, da mettere a posto. Ehi, a capa. Mi ha chiamato Sara, mi ha chiamato che sicuramente vuole sigarette, vi uscite un attimino. Ci sentiamo dopo, ok? Ok. Ok, ah. Attenzione, Natalino, ci sei? Hola, chicos. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, capa! Una buona giornata invece, cavolo, è nuda, te devi rimanere in casa, mi dopo vado a pranzo da mio padre e buh, te rimani a casa. Sardo Capagucci. Ah, ti stai aiutando un be tu. Perché Robè? Anche se la voce la sento un po' gracchiante, sei 9 più 30 qua. Come gracchiante? Ma è cos'è, il microfono diverso c'era l'ultima volta? Sì, ma non è gracchiante, no. Più forte l'accento, più mascolina, come diceva qualcuno. Che microfono è? È un microfono che ho preso, è un microfono che dovrebbe andare bene. Sì, sì, no, ma dico, rispetto all'altra, assoluta tua, rimane un po' più graffiante, diciamo, un po' più... Ti fai più umano, dai, parola al povero. Un uomo umano mi fai. Eia. No, il segnale è molto forte, ma non c'è nessuno? Sicuramente, perché c'è un lutto, beh, sicuramente la bomba magari entrano stasera, capito? L'ho sentito, mi hanno mandato il messaggio sia ieri che oggi, non ho conosciuta quella persona, mi dispiace comunque perché ci ho parlato qualche volta, qualche decina di volte, non dico ultimamente, ma tempo fa, ci aveva fatto qualche QSO con lui, e mi dispiace purtroppo, la vita è così. Tu lo conoscevi? Molto bene. Allora, la persona, diciamo, per quel poco che l'ho conosciuta in radio, quando ti fai due chiacchiere, sembrava una buona persona, non posso dire niente di negativo. Ah, bravissima persona, io lo conoscevo di persona, bravissima persona, guarda. Purtroppo, diciamo così, l'ho sentito tempo fa che non stava bene, ne avevano parlato Marino con Giulio, ne parlavano, e poi ieri mi ha mandato il messaggio Giulio e mi ha detto purtroppo non era più tra noi questa persona qua. Poi stamattina Luca mi ha mandato l'immagine del necrologio sul giornale, ho cercato di capire se di faccia era una faccia che conoscevo, ma non mi sembra di conoscerlo. Io già lo conoscevo, già ci conoscevamo di persona molto bene. Poverino, faccia l'anima, ma ti sto arrivando lì sopra. Ehi, ha detto sei 9 più 30, quasi, dai, poco meno. Anche tu. Ehi, a cosa faceva, di cosa si occupava? Ma era già in pensione questo? Sì, sì, mi pare che va via un negozio dove vendeva, non mi ricordo adesso, forse elettrodomestici, qualcosa. Anche era Marino che lo sa più bene, io non me lo ricordo. Ehi, ma non abitava in città, abitava in qualche zona nell'agro, così? Latinozzi. Ah, Latinozzi abitava. Ero convinto che abitasse tipo, come si chiama, quella zona a Fannapoli, come si chiama? Dove c'è la rocca sparcata, come si chiama? Badelonga, quelle zone lì pensavo che abitasse. Ma cosa, Latinozzi abita. No, vabbè, ti ripeto, io qualche volta l'ho sentito e basta, ma ho guardato anche la foto, ma non mi sembra che sia una faccia che conosco. Sì, sì, no, già io l'ho conosciuto, cioè, bravissima persona, guarda. L'ho conosciuto anche perché io ero di lì, quindi lo conoscia di persona, all'oratorio lo vedevo, lo conoscevo, e poi era amico anche di un altro amico che conosco lì, ci conosciamo tutti. Io sono vissuto lì una vita, ti puoi immaginare. Quindi tu lo conoscevi fuori dal baracchino? Molto bene. No, anche Giulio si conoscevano da ragazzi, dice, da giovani, almeno ho capito così, con Marino si conoscevano molto molto bene. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo in realtà, solo qua in radio pochettino. Ma ce ne sono passati più di uno dagli anni che ci sono io, non ci sono tanti anni, ma diverse persone purtroppo non ci sono più, che ho sentito, ho conosciuto solo qua sul baracchino. Ma almeno 4 o 5 ce ne sono andati via. Purtroppo la vita è così e dobbiamo accettarla. Purtroppo è così, cavolo. Mi dispiace tanto, perché io lo conoscevo quando ero più giovane anche, perché io, ripeto, frequentavo lì, facevo le processioni pure della Madonna del Latte Dolce, già lo credo che lo conoscia ya. Ma c'ha dei figli, ho visto, ho letto una cosa, ci sono dei figli, dei nipotini. Sì. Allora lasciamo un attimino il bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare, se no riprendi tu, un attimino, 2 secondi di bianco, quanto vai tu da. Cappa. Sì. Già lo conoscevo, e tutti lo conoscevamo lì a Latte Dolce, care che non lo conoscia. Di che zona abitava, perché? Nella zona bassa del Latte Dolce. Via. Capito, nella casa più bassa lì. Hai capito? È bravissima persona, la verità. Io ancora mi ricordo la voce, ce l'ho ancora impressa. Lo so, anche io l'ho conosciuto, ti ripeto, poco in radio, qualche volta, qualche decina di volte l'ho sentito, ma era in gamba, perché poi parlavano sempre quell'altro canale, mi sembra, sul 23, con Gio Maria, tutta quella gente lì, Graziano, così è. Sì. Qualche volta ci sono entrato io nella conversazione, anche gli altri, lo stesso, sono da molto che non li sento, perché prima venivano qua sul canale 10, poi ci siamo spostati, canale 23, loro andavano, ci hanno fatto il gruppetto loro, diciamo, le persone un po' più anziane, più grandicelle, se ne andavano di lì, ma sempre le persone in gamba, non hanno mai creato problemi a nessuno. Ma cosa, sono persone in gambissima, guarda, persone veramente brave. Il problema ogni tanto succede sul canale nostro, sul canale 10, ogni tanto c'è qualche simpaticone, vuol fare lo splendido, la sala di Badiva era con la portante fissa, o era qualcuno che non si rendeva conto che stava solo uscendo di segnale, non lo so, perché era fisso, alla fine ma da chi non si rompe pure, è sempre attaccato così, tutta la sera era. Che bucarotto. Però può esserci anche qualcuno che non se ne è accorto. Perché se uno, diciamo, io voglio disturbarti a te, quando stai parlando ti schiaccio portante, non è che non c'è nessuno, sto sempre con questo con questo fischio fisso. C'è qualcuno che se ne è abbizzato sicuramente. Ci è rimasto un po', infatti poi sono andato, io sono arrivato dopo quando sono entrato io, ho detto ma come non c'è nessuno, sul 10 vedevo questa portante fissa, poi staccava, allora mi sono spostato e c'erano, sul 15 c'erano Claudio, mi sembra Massimiliano, Gianni Doppio Room, forse Luca Flip, adesso non ricordo chi era. Detto come siete qua, c'è sempre questa portante da presto, infatti pure ho spostato. Dopo un'oretta poi ho visto che se ne non c'era più e siamo ritornati sul 10. Ma tu il giorno forse sei entrato in ritardo. Poi se io col lavoro ci basico poco, cioè la sera vengo a una certa ora, vengo, capito? Ma che cosa? Nel motocarro, tu esci col motocarro, tu? No, ci abbiamo la macchina. Non ce l'avete il baracchino? No. Anche il motocarro, mi ricordo, tuo babbo ce l'aveva, o sbaglio? Un periodo l'abbiamo messo, poi l'hanno cavato. Ma facevi come stazione base dove lavori e quando ti spostavi ti chiamava col baracchino, così? No, negativo. era proprio per parlare con le persone, ma abbiamo tenuto poco, eh. Ah, non era, no, pensavo, perché c'era un'antenna, mi sembra, di lì, o sbaglio. E dove? No, forse no, no, mi sto confondendo, l'antenna, lo sa dov'è, quello che c'è, dove c'è il lavaggio di cose, il petrone. Lì, ma chi ci sono a Eddie, sono in 43 MHz. Allora, ce l'hanno la Mantova in via Turati, ma l'hanno messa per 43 MHz. Ma quelli sempre che portavano le bombole? Eia! Vabbè, forse prima, ma adesso con i cellulari cosa te ne fai? Prima magari 10-15 anni fa, anche di più, per comunicare magari andava bene. Allora adesso se c'è un problema al telefono, mi passa a portare la bomba a bulla quello lì, dato che sei in zona, ti telefono e vai direttamente. Sì, non va bene, t'accocciano in burro, la gente. Eia! Aspetta, facciamo un'altra chiamata su 10, attenzione 10, chi vuole entrare? Non mi sa che non c'è nessuno. Eia, vabbè, poveracci, qualcuno si diceva, almeno io ho sentito dire, quando parte una persona a fare qualche ora di mutuo sulla frequenza, almeno ho sentito dire così, non so se sia ancora valida questa situazione. Per me se qualcuno vuole entrare. Eia, io per adesso devo lasciare che sto facendo delle cose qua, tengo acceso, anche tu poi magari entro dopo, prima di andare a mangiare, dai, che tra poco devo andare a mangiare, tra poco, tra una mezz'oretta, però sto facendo delle cose qua dove c'ho le radio, tengo acceso, dai, poi nel frattempo c'entra qualcuno. Ok, Robe, dai, ci sentiamo. Ok. Tengo acceso tanto, dai, ok. Intanto tra un po' vado a cucinare. Eia. Hola. Hola. Ma l'hanno mandata. L'hanno domandato, ma c'è quale giornale? Perché sulla Nuova Sardegna, secondo me non compiute, io l'ho guardato al computer, non è che l'ho comprato il giornale, e non l'ho trovata, forse non l'hanno ancora messa. Boh, io non so chi me, non so se me l'ha mandata Massimiliano o se me l'ha mandata Luca Flipper. No, perché io ieri mattina ho fatto telegramma, capito? E poi ho telefonato e mi ha risposto Andrea, il figlio, e quindi ho dato le condoglianze e tutto, ho fatto il mio dovere, ma io non devo andare a nessuna parte. Tutto qua, anche perché intanto è una cosa di famiglia, perciò non è che ci fai proprio assolutamente niente. Io non conosco nessuno, quindi conosco solo il figlio Andrea e basta. Ok, se io nemmeno il figlio conoscevo solo lui e basta, non conoscevo la moglie, non conosco la moglie, nessuno. Per cui no, ma non è il caso, anche perché si sa, con questo fatto del Covid, fare troppo affollamento non è che va molto bene, è meglio che partecipano solo i parenti stretti e basta, le persone estranee alla famiglia è meglio che rimangano un po' distanti, perché è un rischio per tutti, sia per le persone che vanno che anche per gli stessi familiari di Battiglio stesso, non si sa mai. Non va bene. Sì, a me me l'ha mandata Luca la stamattina presto la fotografia. Ed è sul giornale, presa dal giornale. Però no, boh, infatti volevo vedere con una inquadratura più ampia, più grande, come nel computer, ma non l'ho trovato. Ho girato tutti i necrologi che ci sono sulla Nuova Sardegna, ma non ho visto quello di Bacchizio. Boh, forse un altro giornale avrà preso cosa, forse l'Unione Sarda, probabilmente, non lo so. Non so cosa dirti. No, beh, io conosco il figlio, conosco la figlia, la moglie un po' meno, perché non è che ci ho frequentato molto a casa di Bacchizio, però uscivamo molto insieme, il figlio è militare nell'esercito, capito? Vabbè, comunque il mio dovere l'ho fatto, però non vado da nessuna parte, ma stavamo dicendo, sono i funerali alle 3, cosa andiamo a fare? Tanto Edo non vuole più, non ti conosci nessuno, cosa? Infatti ero al telefono anche con Marino stamattina, io quello devo fare l'ho fatto, basta. Mi dispiace tantissimo, ma tantissimo veramente, una persona molto in gamba, molto corretta, molto, una persona veramente a modo, che io ho frequentato, ed ero anche abbastanza più giovane, e veramente non ho da dire niente, peccato, purtroppo le persone buone sono quelle che vanno via prima. Purtroppo sì, con Battiglio noi ci conoscevamo da tantissimi anni, ma tanti, io ho conosciuto Battiglio addirittura che era un ragazzo, proprio ragazzo, nemmeno 20 anni, per cui ti puoi immaginare, poi abbiamo praticato lo sport nello stesso periodo assieme, perché lui correva, era un polista e io altrettanto, per cui ci incrociavamo società con società da tantissimi anni, lui col pedale Berta Sacli, io per la Polisportiva Sassarese in quegli anni, poi ero passato alla società Alba, eccetera eccetera, ma comunque anni che furono, sto parlando di quando avevo 17-18 anni, ti puoi immaginare, ma te lo conto, sono passati 60 anni, l'altro ieri praticamente, e poi veniva sempre a trovarmi in falegnameria, ogni tanto veniva, scambiavamo almeno un'oretta di chiacchiere così, mentre io lavoravo stesso, perché è stata sempre una persona molto, molto corretta, non era invadente, era proprio un signore, insomma, ecco. Un vero signore, nel vero senso della parola, educato, proprio veramente in gamba. Purtroppo è andata così, pazienza, mi dispiace molto per lui e anche per la famiglia, chiaramente, che ha perso un padre molto significativo. Vabbè, dai, è andata così, avanti qua. Vabbè, purtroppo, siamo soggetti, sì. Ci sono queste cose. Vabbè, cambiamo discorso. Tutto capo. giornata oggi all'acqua, giornata veramente brutta. E niente, io sono uscito proprio a fare due commissioni e boh. E adesso tutta la sera, tutto il giorno praticamente rinchiuso nuovamente a casa, tutto qua. E d'altronde cosa vuoi fare? Anch'io dovevo fare una commissione da Bicome, ma non ci sono andato perché sta piovendo, per cui non ho neanche uscire come facevo, perché dovevo comprare del pedinato e allora sta piovendo, non ho potuto comprare, ma sarà per la prossima volta, domani, se per caso dovesse fare una bella giornata che non piove. Pazienza, tu mi dirai, ma oggi è domenica, sì, perché domenica apre lo stesso, Bicome, apre sabato, apre la domenica, magari la domenica chiude mezz'ora prima, la sera, però è sempre aperto, perlomeno stando quello che ho letto, poi non ti so dire di più, ma non era una cosa così urgente che dovevo fare, posso sempre rimandare, non c'è problema. Sì, no, io sono uscito a fare due commissioni al supermercato, niente di che. Ho fatto colazione a casa, ho preso due pasticcini da Oggiano lì dove c'è il panificio, basta, caffè a casa, un pasticcino, e oramai l'abitudine era quella lì di andare, come facevi anche tu, tutti i santi giorni, giusto per fare due chiacchiere, due cose, prendere un caffè, però non si può più fare, allora va, già va bene lo stesso, pazienza, speriamo che passi. I propositi già sarebbero buoni, secondo quello che dicono gli esperti e soprattutto le notizie sul giornale, che questo vaccino che hanno inventato dovrebbe funzionare alla grande, per cui sarà solo questione del tempo, però ce lo dobbiamo sopportare almeno tutto quest'anno, credo. Speriamo che metta prima, speriamo bene, chi lo sa. Il problema è sempre quello, il mondo del lavoro lo ha completamente rovinato, non è possibile, perché così non può andare avanti la gente, con queste restrizioni che si fanno giustamente, che si fanno anche, perché anche quando bisogna capire, però purtroppo il problema è grande per il mondo del lavoro. Soprattutto qui in Sardegna, che non abbiamo molte risorse economiche, la Sardegna, già lo sai, è sempre stata alquanto povera, se vogliamo, tutto sommato, per cui se si chiude, se si blocca l'economia qua è ancora peggio, e allora siamo proprio fritti. Vabbè, che dipende, va. Chi è? Sento qualcuno sotto, stavo parlando. Forse qualcuno in macchina, non so, vabbè. Economia, lascia perdere, non è questione economia, è questione che i soldi non ne stanno entrando, e quindi cosa vuoi fare? Noi pensionati andiamo avanti così, però io penso sempre a mia figlia che ha bisogno di crescere, di creare qualcosa, ed è tutto così al pascolo brado, capito? E come lei e tanti altri giovani, però se questo è il problema dobbiamo cercare di stare un po' più attenti, vediamo. Stavamo parlando dei vaccini l'altro giorno, non ho manco seguito se iniziano a vaccinare quelli da 55 anni in su. Diciamo che con questo fatto dei vaccini anche lì c'è stato un problema, c'è stato un rallentamento perché le case farmaceutiche non ce la fanno a consegnare in tempo i vaccini, e dunque si sa, bisogna avere un po' più di pazienza e aspettare, però la pazienza in questi casi deve essere sempre poca, perché bisogna sollecitare continuamente. Speriamo che il governo italiano riesca a concludere qualcosa di veramente importante, però mi sa che con questa zuffa che c'è in Parlamento per i posti a sedere che si vogliono tenere, stanno pensando più a quello che ai problemi della nazione. Ma comunque, cosa volete dire? D'altronde così la politica, lo sappiamo, è la bestiania dell'umanità, per cui tanto che ci prende sempre il popolo. E il popolo li mette a questa gente e il popolo subisce tutto lì, sia le conseguenze buone che quelle cattive. Vabbè, comunque, staremo a vedere, speriamo bene. Infatti speriamo bene sì, non so. Ti ripeto, tanti programmi fatti oramai sono andati a farsi fare in quel paese. Purtroppo è andata così, vabbè, pazienza. Io spero che ne usciamo, altro non posso dirti. Poi, vabbè, tanto inutile parlare sempre la stessa cosa. Sto mettendo anche il vento oggi, ma già il vento almeno spazza un po' via l'acqua. E poi oggi manco partite ci sono, hanno giocato tutti ieri le squadre principali, così. Sì, le squadre più importanti hanno giocato tutti ieri, praticamente hanno vinto tutti quattro, sì che... Vabbè, comunque, non so, il problema l'avremo martedì perché mancherà l'acqua. Per mezzo Sassari o tre quarti di Sassari, naturalmente a turni nei vari quartieri, però quella di punta ad esempio dalle 8:30 fino alle 8:30 del mattino alle 8:30 della sera dovrebbe mancare l'acqua, stando quanto è scritto sul giornale. Poi altri turni ci saranno lì nei vari quartieri di Sassari e non solo Sassari, dappertutto, un po' dappertutto, Porto Torres, Alighiero, dappertutto insomma, ecco. Anche lì dalle tue parti, non mi ricordo quale giorno ci sarà lì la mancanza dell'acqua, dal potabilizzatore o cosa cavolo si chiama, dalla gravità di Milano, di via Milano, eccetera, anche lì dovrebbero chiudere. Insomma, un po' tutta la città è messa male a livello di acqua, dai. Abbandonata deve fare questi lavori e dunque deve chiudere per forza. Io continuo a dire, visto la mia esperienza vissuta nel lavoro, che il Bunari non si doveva chiudere. Era una grande risorsa per Sassa e soprattutto quando chiudevano il Coghina. Sì, beh, non ci arrivo, quindi il potabilizzatore rimane fermo. Una volta che non ci arrivo dal Coghina, sì, c'è un lavoro grosso al Coghina B. Capito? Quindi una volta che fanno, che chiudono il Coghina, se non arriva l'acqua diretta al Monte Oro non manda Trucco Reale e quindi Trucco Reale non può potabilizzare per la città, è normale, è tutto un giro. No, beh, noi ci abbiamo 50.000 litri, quindi perlomeno nel mio complesso non è mai mancata, anche nell'arco delle 12 ore no, non è mai mancata. Capito? Perché anche se chiudono l'acqua, il vascone di via Milano noi ce l'abbiamo per caduta e quindi con meno ingresso però riesce a riempire bene il vascone, ci è successo altre volte, quindi la parte alta qua di Carbonazzi è poco penalizzata da sempre, da quando proprio hanno fatto il vascone di via Milano. Quando invece c'era il Bunari attivo, tutta la parte alta di Sassari non è mai mancata l'acqua. Però hanno voluto fare un barco, il parco dei divertimenti, e poi è sempre chiuso, lasciamo perdere, soldi buttati anche lì. Sì, come in tutte le occasioni, lo sappiamo, no? Soldi sprecati, buttati, senza risorse economiche, soprattutto, è valide per il popolo, perché dai, abbiamo degli amministratori veramente incapaci, ma a tutti i livelli, non solamente a livello comunale o provinciale o regionale, ma addirittura a livello nazionale, sono tutti incapaci. È gente che pensa solo e esclusivamente alla loro poltrona e basta, non hanno le capacità per poter amministrare una nazione come l'Italia. Purtroppo così è cosa vuoi fare. Sì, infatti è dal Coghinas che c'è un problema, al Coghinas che devono chiudere per forza, prima devono svuotare per poter poi fare dei lavori, con la speranza che il rattoppo che fanno che tenga, perché se non tiene poi allora il discorso comincia a essere ancora più lungo da sopportare, perché ci vorranno più giorni di lavoro. c'è una falla, deve essere, che ne so, qualcosa del genere, io non è che me ne intendo, però mi è fatto di capire così leggendo che c'è una falla lì e dunque per poterla riparare devono svuotare completamente, perché sennò come si fa? Non è possibile. Dopo fatta la riparazione si spera che tenga la pressione, che manda poi l'acqua, che lo sa, staremo a vedere, speriamo bene. Lo dico io in tutti questi anni, perché questo è un problema, il fatto dell'acqua sa se è stato un problema della città ormai eterno. Io mi ricordo da quando ero ragazzino al Monte Rosello c'era già problemi di acqua, la tiravamo con la carrucola dalla finestra, perché sotto il palazzo c'era e ci sono ancora, dove abitava mamma, c'erano i contatori all'acqua, ognuno di noi, ogni inquilino aveva il suo rubinetto e metteva la pompa e si riempiva bottiglie, bidoni e balle varie proprio per avere l'acqua dentro casa, perché su non arrivava. In tutti questi anni non sono mai riusciti a mettere a posto la rete idrica nella maniera proprio efficiente, sempre pieni di problemi, ogni poco periodo, sempre pieni di problemi. Non tanto qui alle Punte, perché io adesso alle Punte abito già dal 1971, ti puoi immaginare. E dunque devo dire che tutto sommato qua siamo stati fortunati, perché è mancata pochissimo, ma veramente pochissime volte l'acqua qua, a differenza di Sassari, che sento sempre interruzioni continue, anche a distanza di 15 giorni l'uno all'altro. È una vergogna veramente, guarda qua. Sì, c'è un attimino di bianco, se c'è qualcuno che vuole entrare. Sì, è un problema abbastanza serio, perché praticamente devono svuotare la condotta del Coghina, si trova una condotta molto molto grossa, capito? È un passaggio della galleria di Coghina, praticamente tutta la tubazione 600 che è sotto, e quindi era già stata fatta quella riparazione già un paio di volte, però adesso praticamente non lo sellano più il tubo, avevano messo un fascione, tutto un acciaio inossidabile, insomma una cosa fatta bene, però non tiene perché c'è una pressione enorme, c'è una pressione allucinante. Ho visto le foto di quando si è rotta, si è aperta e l'acqua è arrivata a circa 50-60 metri di altezza, quindi immaginati tu la pressione che c'è, una cosa allucinante. E perciò hanno deciso di svuotare tutta la condotta, di chiudere direttamente l'ingresso, hanno bypassato, quindi non è che tutti rimangono senza acqua, bypassano dal Bidighinzu momentaneamente per le 12 ore, e molto probabilmente anche di più, perché poi per riempirsi la condotta ci vuole un sacco di tempo. Bypassano dal Bidighinzu giusto per dare il minimo indispensabile al potabilizzatore di Trunco Reale e Monte Agnese, soprattutto quelli che ricevono dal Coghinas, Monte Agnese e Trunco Reale, che sono i potabilizzatori principali, di poter erogare quel minimo d'acqua per fare andare soprattutto l'impianto, perché l'impianto non può rimanere fermo più di 7-8 ore, altrimenti si depositano i fanghi nei chiarificatori, quindi bisogna fare un ulteriore lavoro, svuotare tutti i chiarificatori e le canali dei chiarificatori e fare una pulizia, quindi i costi diventano ancora più alti. In quel caso lì si bypassa e si dà il minimo di potabilizzazione per poter fare andare gli impianti, capito Giulio? E comunque quel lavoro va fatto, hanno deciso, così mi stava dicendo un collega, hanno deciso di tagliare proprio completamente la tubazione e fare tutta l'anello nuovo di ripristino, anziché sellare nuovamente il tubo, perché intanto non tiene, quindi sono un lavoro fatto sicuramente meglio di come è fatto adesso. E vabbè, la parte bassa è molto, molto penalizzata. penalizzata soprattutto il latte dolce, tutta quella zona lì, il monte, molto penalizzata, perché la prima cosa che chiudono è la stazione di pompaggio di Ponte Rosello, altrimenti quella va in tilti, già va in tilti così, è che invece a Gadrodda, te lo posso garantire, perché un anno io ho sostituito un mio collega di Sassari e quando ho visto quella stazione di pompaggio mi sono messo le mani in testa, veramente una cosa allucinante, veramente una cosa allucinante, roba da matti. Ma quello che dico io capisco che le difficoltà sono enormi, perché sono sicuramente enormi il fatto dell'acqua Sassari, ma quando vai in tutti questi anni, io sto parlando di oltre mezzo secolo, sto parlando di 60 anni e oltre, non è possibile, gatto, che in tutti questi anni non siano mai riusciti a rimodernare ad esempio la rete idrica e tutte le parti più importanti dell'impianto. Non è possibile, guardare. Hanno sempre pensato di rattoppare continuamente, spendendo continuamente dei soldi, ma quando mai non avrebbero risparmiato facendo gli impianti di sana pianta? Io penso così avrebbero recato anche meno problemi alla popolazione, eccetera, perché così facendo non è possibile. Tu mi dirai, uno a fare la riparazione, l'altro a fare l'impianto. Sì, d'accordo, però luogo per luogo secondo me avrebbero dovuto rifare gli impianti nuovi, non ripristinare rattoppando, perché quando tu rattoppi hai fatto delle spese inutili solo per un brevissimo tempo, perché poi devi ricominciare da capo ed affrontare ancora altre spese. Non è possibile. La regione cosa sta pensando? Perché lì subentra il discorso regione, cosa sta pensando di fare? No, non lo so proprio, guarda. Va bene che non sono capaci di gestire nemmeno il problema del Covid, figuriamoci se riescono a capire la come si deve fare la manutenzione e soprattutto programmare gli impianti dell'acqua, la gente una bistonta dell'altra. Sembrano che siano persone intelligenti perché magari hanno frequentato il liceo, si sono laureate, ma in definitiva sono delle teste d'asino, tutti quanti, indistintamente, non ce n'è uno capace di poter fare certe cose. Avanti qua. Guarda, io ci ho lavorato in mezzo, quindi ti posso garantire che è così. Rattoppi, investimenti molto poco, perché i soldi che la regione dà per il servizio idrico sono sempre molto pochi, capito? Quindi hanno sempre rattoppato, sempre, nonostante ci siano grandi imprese che possono fare determinati lavori, però hanno sempre rattoppato. Poi si sono aggiunte i disastri di calamità naturale, quindi è chiaro che gli investimenti vanno a farsi fottere, tutto qua. L'unica cosa nuova che avevano fatto quando lavoravo io è dall'impianto di potabilizzazione della Gallura, che è quello principale uno scorrimento veloce di Pedramaiore, hanno fatto la linea nuova sino a Santa Teresa di Gallura, capito? L'unica linea nuova che c'è, gli altri sono tutta roba vecchia, tutta roba riciclata, tutta roba che zappurata, come si dice a Sassi. Investimenti ne hanno fatto poco per la rete idrica, questo non ci andrei dubbio, ti do pienamente ragione, perché conosco perfettamente tutta la situazione. Bisogna che si mettano in testa che la rete idrica di Sassari è un colabrodo e quindi devono cercare di sistemarla una volta per sempre, se ci riescono. Se non ci riescono, allora che continuino a rattoppare e poi si vedrà. Cosa vuoi che ti dica? È che l'acqua se la fanno pagare, maledetti, e se la fanno pagare anche abbastanza alta. A te, riprendi. Sì, ce la fanno pagare abbastanza veramente cara, e poi non la possiamo nemmeno usare per tutto quello che ci serve, perché noi siamo anni e anni comprando l'acqua per cucinare, perché quando apri il rubinetto scende quest'acqua così turbida che è veramente uno schifo, veramente, alle volte scendono anche pezzi di ruggine, ma non certamente dal mio impianto, perché il mio impianto è tutto in rame, tubo del rame, ma arrivano le scorie dalla tubazione della rete stradale probabilmente, eccetera eccetera. È una vergogna, guarda. E tu lavi le soviglie, lavi, e poi le devi sciacquare con l'acqua minerale, le devi sciacquare. Fortunatamente c'è l'acqua che costa poco per cucinare, per fare queste cose qua. Però a cosa le possiamo usare noi l'acqua? Solo per la pulizia personale, no, non è per il bagno, ma per il resto non la possiamo utilizzare, assolutamente no, perché fa schifo veramente. E tante volte mi sono chiesto, ma quando io mi faccio la doccia con quest'acqua qua, non so se sono veramente pulito o se sono più sporco di prima, questo è da valutare, non lo so, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo l'acqua è quella che è. Non va bene, non va bene assolutamente, è una vergogna veramente, è veramente una vergogna, guarda. Sassari soprattutto è messa male, non vedi altro, ragazzi, da che rattuppi nelle strade, perché hanno aperto, perché magari la tubazione si è rotta, perché la marcia eccetera eccetera, e la falla a fare in superficie addirittura sull'asfalto. E allora succede così, purtroppo, ma comunque staremo a vedere, speriamo che prima o poi riescano a risolvere questo grande problema, anzi questo problema è importantissimo. Vabbè, vai, le prendi qua. Lo so che è così, però ti ripeto, se non si investono quattrini e la regione decide di investire quattrini, come fai? Non è che poi non è che la società è gestita dalla regione, quindi se la regione non finanzia, loro non è che possono fare lavori per poi che cosa fare? Rimetterci soldi, a parte che non vale manco un cinto, quindi lascia perdere. Però come hai detto tu, per il servizio idrico la regione deve investire quattrini e capire che tutte le città, ma stavo sentendo l'altro giorno che lì in qualche paese del Nuorese è una vita che non hanno manco potabilizzatore, non ho capito da dove arriva l'acqua, per non sono cose che non ho seguito, quindi non ti posso dire, ma stavo sentendo la TV, vabbè, ognuno è già arrivato i suoi, Sassari così, il comune di Sassari poco fa, basta guardare le strade e basta guardare tutto il resto, figurati tu se investono soldi per l'acqua. Oh, assolutamente no, per carità, adesso mi devo chiudere il traffico e dirottarlo da qualche altra parte, lì stavo leggendo anche lì Viale Trento, a Sassari, in quella zona, fino a Via Gioscari addirittura, perché lì c'è il muro di Pozzolo che sta crollando, è diventato pericoloso, anche lì le strade che si stanno aprendo, il muro di Sant'Orsola che è stato messo nella bretella che porta dalla 131 a Sant'Orsola, lì anche quello era pericolante e aveva crollato una parte, e lì però era padronale e fortunatamente l'hanno riparato in breve tempo, e lì c'era un traffico del diavolo in questi ultimi giorni, perché sulla fila delle macchine, non potendo transitare su senso unico o chiaramente su una strada unica, non è che dovevi farla funzionare a tempo alternato, e allora la fila è interminabile, cominciava dalla 131 sino a Sant'Orsola eccetera eccetera, oppure dovevi fare tutto il giro passando dalla bretella per la Teroce per arrivare pure a Sant'Orsola, insomma diciamo che la Sardegna si sta sgretolando un po' tutto, stanno parlando poi dello smottamento che c'è lì nelle strade di Bonorva eccetera, 7 centimetri al giorno la montagna sta scendendo, 7 centimetri al giorno, una cosa vergognosa, ma quando mai non ci devono essere i muri di contenimento, non fanno niente, non fanno niente, perché sono completamente incapaci di amministrare, il discorso è sempre quello. Tu mi dirai, ma anche la regione non ha molti soldi, ma la regione dovrebbe svegliarsi, farsi sentire a livello nazionale in modo che lo Stato mandi i finanziamenti che ci vogliono per mantenere intatta l'isola, invece no, sono delle crabbe, sono delle pecore, non c'è niente da fare. Avanti qua. Non so che sono delle pecore, però ti ripeto, se le cose non sono messe in bilancio, no, non fanno assolutamente niente, quindi vabbè, lasciamoli fare, se non fate di beggio, come si dice a Sasse, cosa vi ti dico. Va bene, dai, l'1:20, due chiacchiere ce l'abbiamo fatta, al limite ci sentiamo stasera se coincide. Vado a pranzo, Giulio, grazie delle due chiacchiere, grazie del controllo di radio, lascio tutto così allora. Questo P3 sta comportando bene, no, c'era la connessione invertita, capito, allora gli ho fatto, praticamente ho invertito i due fili, ho visto che sta funzionando bene perché prima c'era l'adattatore, adesso l'ho messo diretto. Vedo che non ci sono rumori, non ci sono rientri, non c'è niente, quindi va bene. Ok, dai, ci aggiorniamo stasera, Giulio. Cordialità, saluti anche a casa. Buon pranzo, buon tutto, e se coincide ci sentiamo stasera. Ok. Ok, qua, mi cambio il tutto, dai, al 100%, e stasera ci sentiamo, sì. Così almeno scambiamo ancora due chiacchiere. Anche per sentire un po' l'impressione se qualcuno si è presentato lì magari al funerale dell'amico. Purtroppo è andata così, pazienza lei. Io spero solo che, vabbè, lui adesso è andato a vivere con Dio. E lì penso che stava bene, almeno non soffre più, perché prima stava soffrendo tantissimo. Mi dispiace moltissimo, però la vita è crudele, lo sappiamo, dunque bisogna accettare anche quello. Ciao qua, buon pranzo, dai, ci sentiamo le prossime, stasera eventualmente. Ciao, ciao, buon pranzo, anch'io vado a presentare adesso, ciao. Ciao Giulio, ciao, buon pranzo, l'importante è che la vita continui, poi prendiamola com'è, intanto non comandiamo noi, comanda lui. Ciao, buon pranzo, saluti a casa. Ciao, ciao, altrettanto, ciao, ricambiate saluti, ciao. Se non ti conosce fa così. Ma non morte, no. Non fa, ti fa vedere le denti e basta. Cioè, sono attento, devi ciaccare un braccio. È morello quel cagnetto, è morello. È bravo, peggio, cosa vuoi? È bravo, solo che è pronto per l'attacco, per la difesa. Beh, ma fa anche bene però, E raccontiamo, sai cosa è successo? Questo pitbull senza guinzaglio, senza collare, da solo. Cazzo, lo vedo di colpo, cambia marciapiede per andare addosso al Tyson. Sta attento Tyson, si stava avvicinando, come era da avvicinarsi, ha giù sull'anca e si è allontanato. Ma com'è che non ha musicato? Furbo malagioce. Ma cosa la dico? Perché è traditore il pitbull. Perché deve morsicare? Ehi, è traditore, prende alla coscia, lo prende, lo fa cadere, come cade lo prende alla gola. Ehi, ma c'è la graffa Dyson, lo vedi che non lo fate più. Però è meglio. È meglio che non è meglio che non sa fare, ami. Il sangue non ne deve sentire quel cane. No, ma io non lo faccio tuffare, anche perché magari potrebbe anche buscare, non è che. Però già si sa difendere, non è che non si sa difendere. Ma no, calarunato già si raccava. La musica è duro via di gari, perché la padrona vedeva che ero col guinzaglio, io tranquillo con te, se arrivava questa qua, lo mollava, li mollava il guinzaglio e si metteva a telefonare. E non ho controllato il cane, questo cane è andato dritto dritto contro Tyson, io ho detto, occhio Tyson, come l'ha visto arrivare, le brincate in atto l'ha fatto un calcio in terra, perché quello gli stava andando addosso, lui gli ha saltato addosso prima, l'ha fatto cadere la musicale, la padrona si è avviata con me. Vede, signora, la prossima volta non solo glielo dimono il guinzaglio, perché lì se ne sta al telefono, non controlla nemmeno il cane con tenuta guinzaglio, non l'ha capito ancora. Ora c'è un dossier a guinzaglio, chi è avanti? Papà Natale, meglio che non morsichi mai il pitbull, già. Lascia perdere la testa, lascia perdere, avanti ieri un pitbull qui qua, si è staccato dal guinzaglio del padrone, colpa non ne ha, si è rotto il guinzaglio proprio, il maniglione si è staccato. Stava passando un pastore tedesco, l'ha sbranato. Vabbè, non sono riusciti a toglierli, Ocla. Non ce l'hanno fatta. No, assolutamente. Nel modo più assoluto, una scena agghiacciante. In due l'ha aperto già. Lascia perdere. Lascia perdere. È meglio sempre evitarlo il pitbull. Cosa Tyson? Ove Tyson il tenga. L'ha preso per il collo, ha sollevato in aria, cazzo. Un cane da 30 kg. Ma già lo so, così anche il bigliacco, perché morsica la coscia, ti fa cadere e poi ti aggrappa al collo. Poverino. Ma grande, il pastore tedesco no. E vabbè. Non so che è successo, poi sono arrivati i carabinieri. Io me ne sono andato perché mi stava solo facendo male. Gianni, sto usando il turner più 3. Com'è la modulazione? Bella? Sì, molto bella, molto forte. Una bellissima modulazione, bellissima proprio. Gli ho cambiato le connessioni. È nuovo. L'ho dato proprio una passata di spray, ma è nuovo. Stiamo uscendo dalla fabbrica. Tutte le sue scritte, molto bella. Molto bello, adesso ne ho due. Cappa, quello chi è, Cla? Non è quello che ci avevamo noi. No, quello che avevi tu c'era Massimiliano. Ah, ce l'ha ripreso lui? Sì, beh, me l'aveva prestato per quando ci avevo il Cobra. Poi gli ho restituito, questi sono i miei. Cappa, è bello, Come sempre, sempre in gamba quel tipo di microfono. No, ma poi col Galaxy ha ragione Gianni. Lavora molto meglio dell'MV più 5, alla grande. C'ho a 2, proprio appena. Il secondo puntino dopo lo 0 ce l'ho. KK, va bene, dai. Riprendi già. E a me arriva Giudice, c'è tutto va bene, me l'ho ordinato. Dovrebbe arrivarmi fra 2 o 3 giorni. No, quello pezzettino piccolo di carrozzeria, dai, dal microfono, proprio dove va incassata la capsula lì. Mi manca un pezzo, deve essere caduto e si è spaccato, ma già lo ricostruisco io, non ti preoccupare, lo faccio lo volo. Io vabbè. Questo l'ho pagato 70 euro, ma è nuovo, c'è anche la scatola, figurati tu, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, capo bello morbido, lungo, no, nuovo, nuovo, capsula originale marcata Turner, l'ho aperto, è bello, sono contento, adesso vedo un po', se ne trovo qualche un altro lo prendo, metto un po' di Turner anche, va bene, va bene. Devo attaccare il rosmetro a vedere quanti watt sto dando il Galaxy, così diretto, perché ho staccato tutto, ho conservato anche l'RM Italy, tolto tutto, solo baracchini con i watt suoi e basta. Ho messo tutto dentro l'armadio, stamattina mi sono dedicato a fare queste cose, se no tanto non ne fai niente, era giusto per fare le prove. Va bene così. Adesso devo, sto cercando il rosso, ma dentro l'armadio non lo trovo, ma dimmi di un cazzo. Avanti Anto. Ma come non lo trovi? Sarà lì, sarà. Da qualche parte. Il mio coso. Da. No, non ci credevo io. Cazzo, la mazza Ghinini Varia. Il mio 87 da 27 watt, tutto aperto. Ma io te l'ho detto, qualcosa c'era, misura bene con un rosmetro, perché è impossibile che tirava con quel segnale lì, capito? 25 watt, modulati 27, buoni sono, buoni, buoni, buoni, va bene, un bel apparecchio quello, tienetelo conto, avanti già. E invece io ieri mi sono dedicato, sono andato da Fusaro, mi sono comprato altri 4 PR, lui sono 8 che ne ho comprato, e mi sono fatto gli spezzoni con la Regi 58 che c'hanno adesso, Claudio, se lo vedi, c'ha due calze, c'ha la calza normale e più c'ha quella tipo cookie attorno, e tipo, cosa ti posso dire, la calza stagnola. E le ho fatto tutte e due così, tutte e due gli spezzoni nuovi, con i PR nuovi, tutto nuovo. Cosa fa? E non lo sta facendo adesso, vedi? Sì, è un RG 58000, quello doppia schermatura, capito? Già va bene sempre però per fare quel lavoro, sappilo, sempre per fare degli spezzoni, dei metri, 3, 4, 5 metri, ma non sono cavi che comunque non servono a niente. Se togli quello, metti un H155 e hai risolto il problema. E gli spezzoni interni tieni quelli lì, capito? Non lo trovo, non so se l'ho data a qualcuno, non lo trovo, io sono molto ordinato. A meno che non sia nella scatola su in mansarda, c'è un'altra scatola con tutta un bel di roba su in mansarda, quindi una giovana vada a fare mansarda, ci avvia il culo. Avanti, riprendiamo. Da qualche parte deve essere. E che rosmetro è? È un... è tipo dai, vada che incrociati, non mi ricordo che marca è. Boh, magari è in chibi me e tu ancora si difende. Magari è in chibi in mezzo. Oh, dimmi già. Quando ti capita, fai una cortesia, prendi un mezzo. Caro Grimagianni. Dalla base delle... del tunnel più 3 sino a arrivare alla capsula proprio, sino alla punta della capsula, per vedere se ci sta tra una tra un coso e l'altro, tra un ripiano e l'altro, per vedere se ci sta. La misura? Ah, già. È leggermente, ti dico già che è leggermente più alto, perché io ce l'ho a fianco l'MB più 5, appena più alto dell'MB più 5. Ti dico già che. Vabbè. Vuol dire che è andato con ripiano, sai tu? Vabbè. Scappa, Anto, sì. Scappa, sarà... di caldo che c'ho già, ma che c'ho rosmetro, È strano, però. È tanta roba e non ti rammenti, va. Ehi, adesso non c'è più posto niente, cazzo, adesso devo fare questo armadio di giù, l'ho detto anche a loro di togliermi questa roba che c'è dentro. Adesso mia moglie farà lo spoglio nuovamente, una parte un po' di roba. C'erano ancora le pellicce di mia suocera, le ho prese e le ho portate in chiesa, una pelliccia, delle pellicce buone che aveva, le ho portate lì alla Caritas della chiesa, credo non ce la va a pigliare. Adesso devo svuotare questo armadio, metterci, perché adesso ci ho messo l'altro legnare, quello grosso, allo stato solido, poi l'alimentatore 24 volt, c'è il sommergibile.